Siamo in collegamento con Igor Mattei per parlare di Ad Arte a Calcata, sì. Qui vicino a Roma, dal 12, quindi da oggi fino al 17 luglio. Igor, benvenuto, sì, al Radioteatro su Onda Rossa. Ciao ragazzi, a tutti i radioascoltatori, insomma, felice di essere qui con voi. Allora. un piccolo festival multidisciplinare, raccontaci un po', sì, di cosa si tratta. Allora, vi dico, in realtà è un festival in realtà che si incardina sul teatro e cinema, nello specifico teatro e cinema italiano emergente e indipendente. Queste sono veramente le caratteristiche del nostro festival. Intorno a tutti questi eventi, che saranno numerosissimi perché in soli 6 giorni, alla nostra terza edizione autofinanziata, abbiamo messo su comunque un festival con 10 eventi cinematografici e 10 spettacoli teatrali che vengono da tutta Italia. Insomma, abbiamo poi portato anche conferenze di vario tipo, perché il tema di quest'anno, come tu sai, è l'eresia. Abbiamo voluto dare un filo conduttore in un momento di grande omologazione, diciamo, del pensiero, che è diventato un pensiero unico, e chiunque tenti di spostare un po' lo sguardo dal già visto e già detto viene considerato eretico. L'aggettivo eretico, che normalmente, insomma, ha a che vedere con ha un'accezione negativa, per noi diventa invece il punto di forza intorno al quale e sul quale costruire la nostra possibilità di diversità e di creatività anche diversa. Questo è un po' il contenuto. Ecco, poi ripeto, ci sono compagnie veramente, siamo alla terza edizione, abbiamo 2 location per il cinema, una proprio una vera e propria arena all'aperto e una invece al chiuso, al Granarone. Poi abbiamo un bellissimo teatro alla greca, sempre all'aperto, da 500 posti. E poi ci sarà il palcoscenico naturale del paese che tutti noi romani conosciamo, che è Calcata, che ospiterà varie performance di piazza. Il sabato addirittura riusciremo ad andare oltre il possibile, nel senso che subito dopo lo spettacolo che si terrà all'anfiteatro ci sarà uno spettacolo alle 24 proprio in piazza, nella piazza maggiore di Calcata, e sarà un bellissimo spettacolo di Marco De Meo, artista milanese, performer, che porterà veramente una visione assolutamente alternativa del nostro paese Italia, che langue un po' troppo, mi sembra, sull'omologazione, sulla noia, direi, ecco. Allora, dicevamo di cinema e teatro, parlavi, sì, di nuove proposte giovani, oltre non sono giovani, Federico, ci tengo a dire che non sono soltanto giovani, abbiamo voluto mettere a punto la dicitura emergente e indipendente proprio per fare una distinzione, nel senso ci sono sì compagnie emergenti, quindi ovviamente giovani, ma ci sono anche indipendenti, il che vuole indicare che compagnie di professionisti insomma già affermati nel settore, che continuano ad essere indipendenti o per scelta o per obbligo, perché oggi l'indipendenza è diventata un po' un obbligo, una necessità anche, insomma, perché chi vuol portare avanti un certo percorso artistico, professionale e anche umano, oggi è un po' chiamato ad essere un outsider per potersi esprimere. Ecco, nel caso invece del cinema abbiamo sicuramente opere completamente autoprodotte e rientrano nella sezione absolute eco, insomma assolutamente indipendenti, e poi ci sono opere prime e seconde, che quindi sono opere già più strutturate, più insomma di registi con una produzione. Chiaramente noi ci rivolgiamo alle produzioni piccole e medie, sì, cinematograficamente parlando, non certamente alle major che conosciamo, che non ci interessano neanche, nel senso, noi vogliamo dare spazio a queste realtà, nel senso che Calcata è conosciuta da noi romani, ma poi in tutta Italia e addirittura in tutto il mondo, proprio per questa differenza ostinata che ha voluto mantenere negli anni, e quindi ci è sembrato opportuno e quasi conseguenziale, direi, incardinare un evento come il nostro su questo paese e portarlo in questa direzione. Sarebbe stato assolutamente fuori luogo portare un evento diverso da quello legata al cinema e al teatro, insomma, per trasformare, che so, Calcata in un set cinematografico per grandi produzioni, o per impavoneggiarsi di produzioni più importanti. No, a noi interessano questi artisti, perché sono questi artisti che hanno bisogno di avere maggiore visibilità. Okay. E infatti stiamo cercando di fare rete, Federico, anche con tutti, con tante altre realtà che per fortuna si stanno accendendo in tutta Italia. Noi quest'anno abbiamo come bel simbolo del nostro festival, graficamente parlando, un bel fuoco, insomma, che è il fuoco un po' dell'eresia, che grazie a Dio esiste ancora, nonostante tutto. Cioè, c'è chi continua a pensare in maniera ostinata e contraria, diversamente dalla massa. E abbiamo importanti appuntamenti in questo senso, che vanno al di là del cinema e del teatro, e sono questi nostri appuntamenti tutti i giorni alle 5 al Palazzo, sì, degli Anguillara, qui a Calcata, alle 17, quindi, incontri detti ereticamente, che sono dibattiti eretici su temi di economia, scienza, attualità, teatro e cinema. Abbiamo tra gli altri importanti nomi dei vari settori appena citati, che verranno a parlare di quante difficoltà oggi si incontrano in tutti i settori per voler portare avanti un discorso che vada al di là del neoliberismo dilagante che ci obbliga tutti quanti a un po' al silenzio, insomma, senza retorica, ma purtroppo questo è. E quindi voci di scienziati liberi, cito in questo ambito Vincenzo Artale, insomma, la cui equipe, nella quale ha lavorato, è stata insignita del premio Nobel per la scienza, e tanti altri, insomma, il professore Galloni, che porterà un suo libro importante, La moneta copernicana, anche qui sui falsi miti del progresso, dell'Europa, delle banche e via dicendo, e tante tante altre cose. Sono incontri molto molto importanti che mi piacerebbe portare avanti anche al di là del festival, dico io, nel senso che credo che ci sia bisogno di spazi alternativi e che possano ancora oggi permettere a chi vuole esprimersi di esprimersi al massimo. Questo, insomma, è un po' la nostra politica. Bene. Senti, volevo chiederti anche così una a caldo, una cosa, un commento rapido, una valutazione, sì, rapida. Dicevamo emergenti e indipendenti, ecco, rispetto, sì, sia al cinema che al teatro, oltre a queste due a questi due elementi, quali sono stati i criteri di scelta sia degli spettacoli che dei film? Sì, dirò veramente in breve, perché abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto un bando un classicissimo bando di concorso, sì, dove abbiamo messo chiaramente delle specifiche, insomma, che a noi interessavano, e quindi che ci fossero dei requisiti, parlo nel settore del teatro. Ecco, quest'anno abbiamo scelto proprio volutamente di ospitare compagnie che non fossero state ancora a Roma, perché, okay, noi vogliamo trasformare Calcata e Ad Arte, quindi, come trampolino di compagnie provenienti da tutta Italia verso Roma, quindi come ponte per Roma. E così abbiamo fatto questo primo bando di concorso, è arrivata una fiumana di materiale. Devo dire, siamo orgogliosissimi, perché porteremo degli spettacoli in anteprima veramente meravigliosi. Tra l'altro debutta anche una nostra nuova produzione, che è poi una coproduzione, debutta proprio questa sera, La Fedra di Seneca, con Marina Biondi, che è anche co-direttrice artistica con me del festival, nel ruolo di Fedra, e la regia di Mariana Nagni, questa sera alle 9:30 al Teatro La Greca. E questo per quanto è stata la scelta degli spettacoli. Per quanto riguarda sempre anche il cinema, abbiamo fatto un bando di concorso a seguire subito dopo quello del teatro, e abbiamo chiesto a opere prime e seconde, o completamente autoprodotte, di mandare il loro materiale, anche la sezione corti. Quest'anno abbiamo messo anche questo, e questa è proprio in apertura di festival, abbiamo voluto dare il massimo della visibilità a chi emerge, appunto, e nel caso specifico a coloro che, appunto, si cimentano con le loro prime opere cinematografiche, insomma, con i corti. Ecco, quest'anno avremo tra l'altro il premio film che verrà selezionato da una giuria in parte popolare, in parte critica, andrà direttamente all'Isola del Cinema di Roma, che ospiterà per 3 giorni il nostro Ad Arte 2016, E poi ci sarà un premio sempre per il cinema dato dalla AGPC, che è l'Associazione dei Giovani Produttori Indipendenti, che già da 3 anni ci affiancano e che quest'anno offriranno veramente un importantissimo master di perfezionamento in produzione cinematografica completamente gratuito a tutti, al regista vincitore della sezione corti. Questa è un po' la cosa. Per il teatro invece offriremo la possibilità alla compagnia vincitrice di essere a Roma, al Teatro Lo Spazio, partner anche questo dallo scorso anno. Ecco, questo è un po' il sunto della questione. Sì, sì. Il sito, tutto il resto, ecco, lo potete veramente trovare sul nostro sito, un po' articolato, ma insomma che dirò subito, e veramente ci sono tutti i dettagli, dai biglietti alle sinossi dei vari film e via dicendo. Allora, il sito è www.dillingerascult.it. Veniteci a trovare, perché facciamo veramente, il paese è in festa, tutto il paese è con noi, sta collaborando in maniera meravigliosa alla riuscita di questa terza edizione. Chi, insomma, veramente ci sono, tutto il paese sta collaborando in tanti settori, chi con gli addobbi, chi con l'organizzazione, chi con la promozione. Il paese al momento è diventato veramente uno spazio per tutti coloro che vorranno venire a vedere queste opere e per coloro che vorranno mostrarle. C'è bellissimo, insomma, artisti che hanno fatto delle loro installazioni, voglio dire Damiano 40, un giovane pittore artista che ha donato una sua installazione al centro della piazza, Marina Petroni che ha fatto una bellissima riproduzione del Giordano Bruno di Campo dei Fiori in cartapesta e l'abbiamo messo di fronte alla chiesa, che fu poi la chiesa del film di Monicelli, Amici miei, che forse ricorderete, la scena, famosa scena della zingarata di Monicelli, è stata girata, una delle famose zingarate, sì, è stata girata proprio qui a Calcata, col paesino che dovevano abbattere, e noi in qualche modo abbiamo voluto fare un omaggio anche a Monicelli, mettere questo Giordano Bruno di fronte a questa famosa chiesa dove Monicelli girò questo film, e riproporre anche a livello visivo un gemellaggio ideale tra Roma e Calcata, che c'è naturalmente e che noi ulteriormente vogliamo consolidare. Benissimo. Questa è un po' rapidamente la nostra insomma il nostro percorso. Ci auguriamo veramente, venite, perché merita tutto quello che c'è, veramente merita di essere visto, perché sono spettacoli e film bellissimi, bellissimi, incredibilmente nascosti. Ecco. Noi ci auguriamo di dare una mano a venire fuori a questi fiumi carsici, perché lo meritano. Come artisti abbiamo sofferto tanto anche noi, insomma noi siamo artisti, io e Marina, teatralmente parlando, insomma anche cinematograficamente parlando, come attore, parlo il nostro mestiere, insomma, principale è quello di attore. Niente, abbiamo sofferto molto e quindi abbiamo voluto reagire a questo momento di crisi terribile che c'è, anche con un'invenzione che è questo nostro Ad Arte. Benissimo. Eretico, appunto, quest'anno. Eretico. I riferimenti ce li hai dati tutti, Igor. Sì. Ci vediamo sicuramente a Calcata. Ricordiamolo, sì. Ad Arte dal 12 da oggi fino al 17 luglio prossimo. Luglio. Un abbraccio, sì. E ci vediamo lì. Grazie a voi, grazie a te, e vi aspettiamo, mi raccomando, numerosissimi, che ne vale la pena, a due passi da Roma, vale la pena per il posto e per tutto quello che troverete. Un abbraccio, grazie. Igor, ciao. A voi, arrivederci.